Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Un buon pomeriggio a tutti quelli che tra noi, comodi da casa, vogliamo dedicare un po' di tempo a volare con la fantasia e l'immaginazione, ad annotare consigli e racconti che potranno tornarci utili tra qualche settimana. Il sommario. Questa volta andiamo in Campania alla scoperta della reggia di Carditello, una storia affascinante dai mille riflessi, sconosciuta per molti. Poi risaliamo per fermarci in Piemonte, a Moncalvo, e poi giochiamo con quel che sappiamo del mondo. La reggia di Carditello è la cugina sfortunata della reggia di Caserta. A dire il vero, anche quella di Caserta nel Novecento ha subito un bel po' di angherie. Carditello se l'è vista peggio, ma vanta oggi una bellissima storia di riscatto. La nostra architetta preferita, Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, è pronta per raccontarcela. Sono innamorata di questa destinazione e ci spostiamo geograficamente perché siamo state fino adesso in Lombardia e in Piemonte. Oggi invece, già che dobbiamo in questo momento viaggiare con la fantasia, Valeria, viaggiamo seriamente. Andiamo a sud, andiamo in provincia di Caserta e più precisamente alla reggia di Carditello. Stiamo facendo un sogno di viaggio per il momento, che poi speriamo diventi un viaggio vero. E l'origine di questo sogno di viaggio è che questo è un luogo bellissimo innanzitutto, ma soprattutto questa reggia ha alle spalle una storia di riscatto straordinaria. Allora, un minimo di storia sul come è nata. È stata creata nel 1744 da Carlo di Borbone. E all'inizio aveva una destinazione abbastanza tradizionale per l'epoca, per cui serviva per la caccia e per gli svaghi della famiglia reale. Però la reggia di Carditello acquisisce prestissimo una nuova funzione, perché nel 1787 Ferdinando IV di Borbone incarica un architetto allora famosissimo, che era Francesco Collecini, che era addirittura un allievo di Vanvitelli, di progettare per questo sito un enorme complesso che comprendesse sia una residenza reale che degli spazi espressamente destinati ad un'azienda agricola, facendola quindi in sostanza diventare una sorta di fattoria molto innovativa. Per arrivare a questo doppio obiettivo, questo architetto progetta l'edificio reale prevedendo di dividere fisicamente proprio lo spazio alle spalle della palazzina in 5 cortili, che erano destinate alle attività agricole, mentre l'area anteriore alla palazzina viene strutturata sulla base del modello del circo romano, quindi in una maniera molto grandiosa, perché c'è una pista in terra battuta con un prato centrale, due fontane con gli obelischi, un tempietto circolare dal quale addirittura il re poteva assistere agli spettacoli ippici. Per dare un parametro della grandiosità del progetto, si tratta del più grande ippodromo al mondo inserito all'interno del perimetro di un edificio, che all'epoca riusciva ad accogliere fino a 30.000 spettatori. Allora, la palazzina neoclassica che aveva progettato Collecini, che era questo architetto famoso, in realtà non ha nulla da invidiare alle altre e ben più famose regge italiane, perché è davvero spettacolare. Ma in più una caratteristica che all'epoca la rendeva sostanzialmente unica, perché già al tempo dei Borbone, in questa che abbiamo descritto come fattoria illuminata, riuscivano a convivere le feste da un lato, gli svaghi di tipologia reale che naturalmente si svolgevano nelle sale affrescate che erano piene di quadri, marmi, arazzi, eccetera eccetera, tutto questo riusciva a convivere con l'allevamento delle bufale, la produzione di mozzarella e l'addestramento di una razza di cavalli specialissima che è la razza persano. Quindi Carditello e la sua reggia, come si suol dire, partono bene. Mi viene da dire, Livia, che in qualche modo già qui viene fuori quella sorta di organizzazione che confina molto con l'arrangiamoci nel modo migliore che possiamo, che è tipica del meridione. Altro che, ed è un esempio praticamente unico, perché concilia queste due modalità di vita, di occupazione dello spazio e di progettualità del tempo che apparentemente non erano conciliabili a quell'epoca. In sostanza, quindi, parte bene, ma nei secoli successivi ha una storia che si complica moltissimo. Questa meravigliosa tenuta viene prima occupata dai Garibaldini, poi acquisita dai Savoia. A partire dagli anni 20 inizia a essere svuotata di tutte le ricchezze, dipinti e arredi che vengono spostati nelle altre residenze reali campane. È una storia da Cenerentola con le sorellastre, praticamente Valeria, perché si smembrano e si cedono i possedimenti, interviene l'occupazione da parte degli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, viene ulteriormente ceduto il sito al consorzio di bonifica del Basso Volturno, che non riesce però economicamente a gestirlo, e alla fine arriviamo ai tempi più recenti e più complicati e più drammatici, nei quali la reggia finisce addirittura nelle mani della Camorra, che sostanzialmente completa l'opera di depauperamento e violazione usando i terreni, tu pensa, come discarica abusiva e sottraendo gli avanzi delle decorazioni architettoniche che erano ancora rimasti nella reggia. Volta questa storia tristissima ha un bellissimo happy end, che è uno dei motivi per cui mi appassiona così tanto. E questo happy end inizia nel 2014, quando la reggia viene finalmente acquisita dallo Stato. Due anni dopo, nel 2016, viene costituita la Fondazione Real Sito di Carditello, che da quel momento in poi inizia il percorso di restauro, ma soprattutto di rinascita del sito. Vedremo perché non si stanno limitando a restaurare la struttura, ma davvero la stanno facendo rinascere. Abbiamo detto che questo è un percorso terribile se ci riflettiamo sopra, anche perché questa reggia era ed è un luogo pensato perché la bellezza potesse convivere con la quotidianità e perché l'incanto della sua struttura fosse immediatamente familiare. Sempre rifacendosi alla struttura architettonica, ad esempio, la reggia di Carditello ha una pianta a doppia T, è come se due grandi T fossero attaccate. Questo fa sì che quando te la trovi davanti tu ti senta sostanzialmente accolto dall'edificio, quasi in un abbraccio. Hai come l'impressione che Carditello spalanchi queste sue braccia di mattoni e intonaco per invitarti a visitarla. Se percorri le sale e i terreni intorno, non hai mai l'impressione di essere in un monumento, nel senso un po' rigido del termine, ma hai la sensazione di essere in un luogo vivo, allegro e soprattutto un luogo nel quale si ha voglia di ritornare. La saga vena di mare tu, a cuor giocano da pieni chiù. Roberto Formato, che è il direttore della fondazione che, come ti dicevo, oggi gestisce la reggia, la definisce una reggia amichevole e mi sembra veramente una definizione splendida, perché in qualche modo riesce a raccontare di un sito che, malgrado abbia una straordinaria imponenza, non è in realtà mai stato né supponente né trionfale, ma è sempre stato invece quotidiano, vivo, normale nel senso bello del termine. Quindi la fondazione sta portando la reggia di Carditello oggi proprio in questa direzione, perché, come ti dicevo, si stanno effettuando dei lavori di restauro, ma è stato scelto di farlo mantenendo gli spazi aperti al pubblico. in più, e qui secondo me arriva il bello, si stanno recuperando tutte le destinazioni originarie del sito. Si sta ripristinando la produzione di mozzarella di bufala, si sta ricominciando a dedicarsi all'allevamento e all'addestramento dei cavalli di razza persana, cosa che viene fatta oggi con una lettura un po' più contemporanea, declinata nella forma dell'ippoterapia, dell'ippoturismo, eccetera. E viene recuperata la coltivazione della vite maritata, che è una specie autoctona che ha la particolarità di crescere sugli alberi ad alto fusto fino a 5 metri e che dà vita ad un vino frizzante che pare buonissimo, che si chiama Asprinio d'Aversa. Quindi alla Reggia di Carditello oggi siamo in grado di vedere questa sorta di ciclo di riscatto. Per darti degli esempi, ma sarebbero davvero tanti, è stato bonificato dall'amianto una parte di un bosco splendido che c'era e al posto dell'amianto è stata creata un'area picnic. Si stanno impostando dei progetti di inclusione per i rifugiati con gli SPRAR della zona. A brevissimo, mi diceva il direttore, saranno inaugurati dei percorsi sportivi ed escursionistici per famiglie. E quindi, se vogliamo trarre una sorta di morale, la contrapposizione bene e male che ha contraddistinto tutta la storia di Carditello si è finalmente conclusa con il trionfo della legalità e della bellezza, che qui è davvero declinata in tutti i suoi aspetti. Poi volevo dirti un ultimissimo particolare molto curioso che mi è piaciuto moltissimo. Francesco Baracca, che era il famoso eroe dell'aviazione, aveva rappresentato sulla fusoliera del suo aereo proprio un disegnino di un cavallo persano, che era una razza che lui amava molto. Alla sua morte, la mamma ha regalato ad Enzo Ferrari l'immagine del cavallino persano del figlio come portafortuna per le sue auto. Allora, la storia di come è andata la vita di quel cavallino rampante direi che la conosciamo tutti. A questo punto ci rimane da andare a vedere dove in qualche modo questo cavallino rampante era nato. Ci fermiamo per qualche istante, non andate via. Globetrotter 24. Siamo tutti a casa e probabilmente abbiamo dato libero sfogo a partite infinite di Risico e Monopoli. Oggi vi proponiamo un libro che è anche un gioco ed è anche un modo per prepararsi al meglio per i viaggi futuri. Il libro dei quiz di viaggio della Lonely Planet. Angelo Pittro è il direttore di Lonely Planet Italia. Angelo, buon pomeriggio e benvenuto. Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontaci un po' com'è nata quest'idea. Io non so se era già in programma, ma sicuramente è arrivata in un momento, difficile per tutti, ma diciamo funzionale a questo libro. Beh, assolutamente così, perché effettivamente parlare adesso di un libro, dei quiz di viaggio, nel momento in cui siamo tutti in famiglia, siamo chiusi in casa, è l'occasione migliore per continuare a viaggiare rimanendo fermi sul posto, per citare Jovanotti, credo. E, sì, il libro in realtà era già in preparazione, quello che abbiamo fatto è stato accelerarne il processo, il percorso produttivo all'interno della casa editrice affinché potesse arrivare appunto nelle case di tutti noi in un momento in cui ce n'è particolarmente bisogno, perché alla fine la logica di questo, come di qualsiasi quiz, io credo, almeno dal mio punto di vista, è quella non soltanto di mettere alla prova la propria conoscenza in questo caso del mondo, ma più in generale di arricchirla questa conoscenza, che è poi lo scopo per cui noi viaggiamo normalmente. Allora, per una volta abbiamo l'occasione di imparare qualcosa di più di questo benedetto pianeta su cui viviamo rimanendo appunto sul divano e qui ce n'è per tutto, insomma, sempre tutti i gusti perché sono 2000 quesiti divisi in ben 100 quiz che a loro volta sono divisi in tre categorie. Abbiamo giocato un po' da quella più semplice a quella più difficile. Identificando con l'esploratore la categoria diciamo delle domande più difficili e quelle invece di mezzo è la categoria dei viaggiatori e invece la prima, quella più semplice, è la categoria degli escursionisti, quella dove praticamente quasi tutti riescono a indovinare la maggior parte delle risposte. Senti Angelo, siete andati per paesi, per continenti o queste domande sono trasversali? Sono assolutamente trasversali, sono divise al loro interno in queste tre categorie che dicevo, poi in domande sulla cultura generale, sui musei, sulle città, vado un po' a random, su cibi e bevande, location di film, montagne e così via. Ripeto, con l'obiettivo non tanto di essere didascalici e quindi semplicemente mettere lì in fila delle nozioni, ma cercare davvero di stimolare la curiosità per conoscere quelle cose, piccole cose che poi ti aprono una conoscenza magari più ampia di uno spicchio di mondo, ecco. Anche una sorta di, se vuoi, di preparazione può essere intesa anche in questo modo. In questo momento in cui siamo costretti a stare a casa, ci si può anche preparare a quello che può essere invece un viaggio futuro che magari avevamo a cuore da tempo, e in questo modo, questo è uno dei tanti modi per approfondire quel viaggio, per prepararsi. Guarda, assolutamente così. Molto spesso, forse senza rendersene conto perché non sempre ci facciamo caso, ma l'appetito per una certa destinazione ci viene da un dettaglio che può essere qualche volta, che ne so, la location di un film, una canzone, un brano, o non so. Allora, in questo caso potrebbe essere appunto quello spunto, sapere che quel tipo di monumento, quel tipo di pianta, quel tipo di piatto particolare, ecco, è radicato in una certa area del mondo. E la nostra passione per quell'oggetto magari ci fa poi venire voglia di partire per un viaggio, che è quello che in fondo vogliamo tutti, nel momento in cui avremo finalmente recuperato la nostra libertà, la prima cosa che vorremmo fare è appunto viaggiare, non necessariamente tanto lontano da casa, ecco. No, no, certo. Tra l'altro questo libro è anche un modo per giocare, se vuoi, a casa, perché lo puoi usare sia come spunto personale che come proprio gioco di società. Esattamente così, tra l'altro si presta anche ad essere utilizzato virtualmente, cioè in questo momento tutti noi facciamo un ampio uso di queste chat, video chat, dove mettiamo insieme tanti amici, un modo spiritoso e divertente, non così convenzionale per giocare insieme potrebbe appunto essere il libro dei quiz di viaggio. L'ultima domanda che voglio farti, forse è un po' cattiva, avete proprio preso in considerazione tutti i paesi del mondo o qualcuno l'avete lasciato fuori? Ma devo dire che normalmente la nostra filosofia è quella di non lasciare fuori nessun paese, ce ne sono alcuni sui quali ovviamente le informazioni che noi proponiamo ai nostri lettori sono più ridotte per ragioni magari di ordine politico, legate alla sicurezza, penso ai paesi in guerra in particolare, o quelli che per altre ragioni non possono essere così visitati, perché poi alla fine Il nostro scopo è quello di cercare di fornire ai nostri lettori informazioni e suggestioni per intraprendere poi un viaggio vero e proprio. Su questo libro dei quiz non saprei rispondere, non ho verificato se tutti i paesi del mondo sono inclusi. È una bella domanda che potrebbe far parte anche del quiz. In questo complicato momento per il nostro paese sono tantissime le iniziative che tentano, ciascuna a modo proprio, di accarezzare l'Italia. Anche il Touring Club ha lanciato una campagna per sostenere le bellezze del territorio, Passione Italia. Noi cogliamo l'occasione per cominciare un viaggio tra i comuni Bandiera Arancione e questa settimana partiamo da Moncalvo. Il primo cittadino è Cristiano Orecchia. Nel vuoto del letto dolce. Sicuramente è strano aggirarsi per il paese in queste settimane spettrali, no? Noi siamo abituati ad avere una cittadina molto viva, ricca di turismo, e adesso non vedere neanche più il mercato settimanale sicuramente rattrista molto, però confidiamo che queste misure siano utili per arginare nuovi contagi e che quindi sia possibile presto tornare a festeggiare tutti insieme. L'importante è questo, l'importante è che finisca presto e ci sia la possibilità di tornare a riempire le nostre piazze, a vivere il nostro teatro, a visitare il nostro museo. Allora, Sindaco, ci racconti un po' il suo comune, perché questo può essere, se vogliamo, un invito, no? Per il dopo, quindi stimolare la curiosità di chi non conosce Moncalvo e venirci poi un domani. Moncalvo, a discapito delle sue modeste dimensioni, ha la dignità di città. C'è chi sostiene sia la città più piccola d'Italia, proprio perché siamo meno di 3.000 abitanti, ma per ragioni storiche abbiamo questa nomina, che era già stata data in epoca di Monferrato, dai Gonzaga, ed è stata poi confermata anche con il Regno d'Italia. È piccola, ma c'è tutto, ci sono veramente tutti i servizi, abbiamo un teatro magnifico dove ogni anno organizziamo una stagione teatrale sia in dialetto che in prosa. Abbiamo un piccolo ma ben fornito museo, delle chiese magnifiche. C'è una delle chiese, secondo me, più belle della provincia di Asti, che è San Francesco, dove sono custodite delle opere di grande valore del pittore moncalvese Guglielmo Caccia, che prende anche proprio il soprannome di il Moncalvo, detto il Moncalvo, proprio da questa sua origine. E poi ovviamente le eccellenze enogastronomiche, noi siamo famosi in tutta Nord Italia per il tartufo, e il Moncalvo ospita la seconda più antica, più storica fiera del tartufo, che è seconda, diciamo, solo a quella di Alba. E poi le carni, la grande eccellenza delle carni piemontesi. Noi ospitiamo la più antica fiera del bue grasso, quindi un mercato zootecnico dove si vendono, dove si scambiano questi capi, e poi si può mangiare il bollito tutti insieme alla Proloco. Sindaco, se dovesse scegliere un appuntamento, diciamo dall'estate in avanti, sperando che appunto quest'estate tutti noi potremo uscire e andare e magari appunto scoprire quelle che sono le bellezze italiane che ancora non conosciamo, se lei dovesse scegliere un appuntamento, quale sceglierebbe? Beh, devo dire proprio quest'ultima che ho citato poco fa, la Fiera del Bue Grasso. Io penso che sia una delle esperienze più caratteristiche. Tant'è che non si tiene nel fine settimana, ma si tiene sempre il mercoledì. Quest'anno cadrà, se non mi sbaglio, il mercoledì 9 di dicembre, esatto, sì, ho controllato il volo. E questo proprio perché è una fiera vera, non è una cosa un artificio organizzato solo per compiacere i turisti, è proprio un'esperienza genuina di vita contadina piemontese. Quindi secondo me questo è l'evento principe, il culmine, chiude il calendario delle manifestazioni moncalvesi, ma la chiude veramente, veramente in bellezza. Moncalvo, oltre alle sue eccellenze gastronomiche, ospita anche un patrimonio culturale veramente inestimabile. Prima citavo le chiese, qui sono contenute le opere appunto di Guglielmo e Orso La Caccia, famose in tutto il mondo, possiamo dire, ma abbiamo anche un piccolo gioiello di museo dove sono custodite le opere dell'ascito Montanari, questo dignitario italiano che ha girato tutto il mondo, ha visitato paesi come il Kenya, il Giappone, e durante la sua vita ha raccolto opere secondo il suo gusto e alla sua morte le ha donate alla città. E quindi in questo museo possiamo trovare opere di pregio, anche un De Chirico, uno Chagall e un'ampia collezione di arte giapponese. Merita veramente tanto. Di solito la gente viene a visitare i nostri borghi principalmente per mangiare e spesso non sa che si nascondono queste perle da scoprire. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.